Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Marcello Lunelli. Una vita tra la grappa segnana e le bollicine Ferrari. Di Anna Marino. L'alcol è una sostanza chimica, ma può essere anche un motivo di allegria, di gioia, un motivo di aggregazione. Ci sono tanti significati che in questo momento ha l'alcol. Purtroppo anche dei significati molto tristi, tragici, perché le stragi, l'attenzione dei media sul problema dell'alcol è sicuramente una cosa che ci tocca parecchio. Bere responsabilmente è di sicuro la raccomandazione che Marcello Lunelli fa propria. E a pieno titolo, visto che fa parte di una famiglia imprenditoriale che fin dalle origini lavora per l'eccellenza del bere. Il gruppo Lunelli, 180 dipendenti per un fatturato di quasi 70 milioni di euro. Dell'azienda di famiglia fanno parte da anni le bollicine dello spumante metodo classico Ferrari, la grappa segnana, l'acqua minerale Surgiva, i vini fermi Lunelli in Trentino e delle tenute Podernovo e Castelbuono, in Toscana e Umbria. Marcello Lunelli, l'enologo di famiglia, spiega quella misuratezza del bere che Gino Veronelli racchiude in una frase: bevi con meditata intelligenza, meno è meglio. Ma trova parole anche per la leggerezza delle bollicine e il comfort della grappa. Nell'immaginario collettivo le bollicine come le nostre di Ferrari sono legate a momenti di festa, a momenti di gioia, a momenti di convivialità, quindi un momento sicuramente molto leggero ma anche pubblico. Per quanto riguarda la grappa invece si sta riscoprendo quasi un consumo intimo e rappresentano una consolazione che in una società veloce la gente si può permettere. Quindi c'è una nuova frontiera di consumo di grappa che storicamente era la grappa dell'alpino, la grappa del manovale, era una fonte di calorie e comunque era un alimento. Adesso è puro piacere, moderato, quindi consapevole, in una situazione più privata, quindi a casa. L'evoluzione di queste bevande coincide con quella delle famiglie che le hanno ideate e prodotte. E le storie della famiglia Segnana e della famiglia Ferrari si intrecciano con quella della famiglia Lunelli. Segnana è un nome che appartiene alla storia del più italiano dei distillati, la grappa. Proprio quest'anno ricorrono i 150 anni della grappa segnana. Era il 1860 quando Paolo Segnana, di Borgo Valsugana, realizzò una delle poche distillerie mobili della storia. Installò su un carro trainato da cavalli gli alambicchi e cominciò a girare di valle in valle, di maso in maso, lavorando le vinacce appena spremute. Nel 1982 l'azienda fu rilevata dalla famiglia Lunelli, produttrice delle bollicine Ferrari. Un passaggio naturale, visto che i Lunelli erano tra i più importanti conferenti di vinacce. Meraviglioso distillato di vinaccia, quindi quest'acqua vite, acqua di vita. Segnana nasce 150 anni fa, nel 1860, per opera del suo fondatore, Paolo Segnana, che inizia l'attività come distillatore condotto. Quindi all'epoca l'impero austro-ungarico gli diede un permesso molto particolare di poter distillare le vinacce dei singoli masi, quindi delle piccole aziende agricole della sua zona, Valsugana, vicino a Trento, nel giro di 24 ore. Questo per aumentare, cosa ha portato? Ha aumentato la qualità media della grappa e soprattutto un controllo sul territorio di che cosa veniva distillato. Dopo alcuni anni, diciamo, si stanca di fare il distillatore condotto e quindi si insedia a Borgo Valsugana, dove così si ferma e fonda la distilleria. Distilleria che negli anni ha mantenuto un assetto familiare di estrema qualità, quindi attenzione alla qualità soprattutto del prodotto. Una storia che procede fino all'ultima generazione segnana del signor Armando, nel quale il passaggio non è avvenuto in maniera ottimale e quindi si è inserita la mia famiglia. Mia famiglia che da molti anni, ancora all'epoca di nonno Bruno, aveva dei rapporti commerciali con la famiglia Segnana, perché nonno nel 1929 fonda la prima enoteca di Trento. Da lì la sua conoscenza del mondo del vino lo porterà all'acquisto delle cantine Ferrari, ma soprattutto a una frequentazione con la famiglia Segnana per l'acquisto di grappe di eccellenza, perché lui vendeva anche grappe. Quindi nell'82 la mia famiglia, mio padre e i miei zii decisero che questa ottima distilleria poteva essere un buon acquisto per incrementare la famiglia delle aziende del nostro gruppo. La storia dello spumante metodo classico italiano è legata indissolubilmente con la preziosa opera di Giulio Ferrari, che all'inizio del secolo scorso decide di dare vita alla sua passione, quella di produrre spumanti metodo classico nella sua terra di origine, il Trentino. Esattamente nel 1902, e a soli 23 anni, Giulio Ferrari, esperto viticolo ed enologo, fonda a Trento la sua azienda vitivinicola, che segnerà profondamente lo sviluppo dell'enologia e delle bollicine italiane. Il giovane Giulio Ferrari compie i suoi studi prima alla Imperial Regia Scuola Agraria di San Michele all'Adige e poi alla celebre Scuola di Viticoltura di Montpellier, in Francia. Dopo aver lavorato per qualche tempo ad Épernay, nel cuore della Champagne, apprende i segreti della produzione di spumante metodo classico che trasferirà poi nel suo Trentino. Pignolo, esigente e caparbio, Giulio Ferrari riesce in pochi anni a produrre il suo celebre spumante. Nel 1952, Bruno Lunelli, padre degli attuali proprietari, rileva da Giulio Ferrari sia il marchio sia la cantina dei suoi prestigiosi spumanti. Così racconta la storia Marcello Lunelli. Lui non aveva figli e non si fidava dei propri parenti. Qui sembra veramente una tipica storia italiana. E tra i vari pretendenti si fa avanti mio nonno. Signor Giulio Ferrari si fida e vende le cantine Ferrari a nonno Bruno, con alcuni però paletti. Si doveva mantenere il nome Ferrari, si doveva mantenere la sede a Trento e il signor Giulio doveva poter lavorare in azienda fino alla morte. Quindi dei grandi paletti che molti non accettarono e che invece mio nonno, avendo un ottimo naso commerciale, però non era un creatore di vino e di bollicine, fu ben felice di avere il signor Giulio Ferrari ad insegnare a lui e ai suoi figli l'arte delle bollicine. Infatti il signor Giulio diceva sempre a mio nonno: lei ha un pregio e un difetto. Il pregio è che ha 5 figli, il difetto è che è ragioniere. E le due personalità si così collaborarono in maniera splendida. Nel 1969 Bruno Lunelli passa il testimone della conduzione ai suoi 3 figli, Gino e Franco, responsabili dell'amministrazione e della presidenza, e Mauro, in cantina responsabile della produzione delle nobili bollicine, note nel mondo con il nome di spumante classico Ferrari. Oggi in azienda lavorano 3 componenti della seconda generazione e 4 della terza generazione, tra cui Marcello Lunelli, che spiega la ricetta di famiglia per il passaggio generazionale. Preparare le nuove generazioni con percorsi scolastici e di esperienza fuori dall'azienda mirati alle future competenze che poi si pensano di dare a queste persone nell'azienda. Un'azienda che deve abituarsi ad avere anche persone esterne. Questo abitua la generazione a interfacciarsi anche con storie diverse e poi dare un po' di spazio ai giovani. Devo dire che è stato un passaggio, penso io, sono di parte, ben riuscito da parte della nostra famiglia, perché vuoi anche l'azienda che è abbastanza grande, ognuno di noi cugini ha un suo ambito di lavoro e di responsabilità e quindi questo ha facilitato anche il fatto di avere degli spazi dove poter esercitare le proprie competenze. Marcello Lunelli ha conseguito il titolo di agronomo e quello di enologo, ha fatto il tirocinio in una cantina sociale e poi in Germania e ha conseguito la laurea in agraria all'Università Statale di Milano. Tanti stili di vita diversi che lo portano a scattare una speciale fotografia di insieme di un imprenditore che deve bilanciare vita e lavoro. Se siamo quello che siamo, orgogliosamente, è perché siamo una famiglia unita, e quindi anche io personalmente questi valori della famiglia cerco di tenermeli stretti e di trasferirli anche con una vita che dedichi dei momenti, compatibilmente col business, alla famiglia. Dico forse cose molto semplici, ma il poter ritornare a pranzo a casa, a Trento si può fare questo, per me è un momento importante, un momento che mi dà gioia e che crea quello stacco che mi permette poi di essere veramente molto presente durante tutte le ore che trascorro in ufficio. Ecco, è chiaro che un territorio come il nostro, una città come la nostra ti permette questi lussi che, avendo vissuto, abitato e studiato qui a Milano, non mi sarei mai potuto permettere. Il territorio, una provincia autonoma con un governo autonomo, è importante per molti aspetti. Segnana oggi è in una distilleria all'avanguardia che sorge accanto alle cantine Ferrari a Trento. La vicinanza dice dello stretto legame che esiste tra Ferrari e Segnana ed è testimonianza dell'eccellenza di ogni creazione della distilleria. Perché le vinacce ottenute dalla soffice spremitura delle uve con le quali si crea il Ferrari sono particolarmente ricche di mosto e di aromi. E perché la brevità del percorso che separa la pressatura dell'uva dagli alambicchi permette alle vinacce di non perdere nulla dell'originale fragranza, della pienezza dei profumi, dell'intensità dei sapori. Marcello Lunelli sa bene quanto la sua gente e il luogo in cui produce siano strategici. Noi siamo quello che siamo, non solo per la bravura, ma soprattutto perché siamo, lavoriamo e valorizziamo un territorio come il Trentino. Valorizziamo delle uve. Le uve sono frutto di un clima, di una situazione naturale che nessuno ci può togliere, e sono anche il frutto del lavoro delle persone. Gente un po' chiusa, austera, seria. Quindi questo, da una parte, a livello produttivo è sicuramente un vantaggio competitivo incredibile. Poi sta nell'intelligenza anche nostra di aprirci al mondo. Quindi se la produzione deve essere fedele ad una unicità, questa unicità dopo bisogna portarla nel mondo. E nello sviluppo a livello mondiale, Marcello Lunelli spiega quali sono i punti fermi. Noi abbiamo una specie di carta costituzionale che ci portiamo dentro da ormai 108 anni e che è quella delle origini, del signor Giulio e di nonno Bruno, e che è una fedeltà al Trentino. Produciamo solo bollicine metodo classico, punto di sicurezza alla famiglia e un amore per il prodotto. Oltre la grappa segnana e lo spumante Ferrari, quindi, secondo Marcello Lunelli, si può esportare anche una formula di vita. In un mondo impersonale, comandato dalle multinazionali, da forse un mondo proprio che non sa esprimere delle persone, delle facce, dei sentimenti, delle provenienze, ecco, vogliamo regalare una formula diversa di vita attraverso anche la testimonianza del nostro territorio, che ci rende unici rispetto a tutto il resto del mondo. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.